Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Può la follia di un uomo rendere grande la follia di un altro? La storia di oggi a Destini Incrociati ci dice che è possibile, quando di mezzo c'è il genio creativo. D'altronde, spesso la follia può avvicinare al sublime, diventare una forma di pura ricerca dell'arte. Tanto temuta nel Medioevo da essere considerata come il demonio, male da esorcizzare fino anche alla morte, la follia viene temporaneamente accettata durante il Rinascimento, come dimostra Erasmo da Rotterdam, che nel 1511 scrive il suo famoso elogio della follia. Lo stesso William Shakespeare, poco più avanti, nell'Amleto, parlerà per bocca di Polonio con le famose parole: c'è del metodo in questa follia. Adesso finalmente sono quasi sicuro di aver scoperto la vera causa della stranezza di Amleto. E allora parlate, sono ansiosa di conoscerla. Mio sovrano, mia regina, ora sviscerare cosa la maestà dovrebbe essere, cosa sia il dovere, perché il giorno è giorno, la notte è notte, il tempo tempo, sarebbe solo sprecare notte, giorno e tempo. E perciò, dato che la brevità è l'anima del discorso, io sarò breve. Il vostro nobile figlio è pazzo. C'è del genio nella follia. E oggi, a Destini Incrociati, ci addentriamo in questo mondo inesplorato, affascinante e profondamente legato alla natura umana. Lo facciamo grazie all'incontro tra i due protagonisti di oggi. Monaco di Baviera, 1955. Nella modesta pensione di Elisabeth Strasse, gestita dall'anziana e bizzarra Frau Clara Riet, vanno a vivere Frau Stipetic e i suoi tre figli maschi. Questa famigliola arriva dalle montagne dell'Alta Baviera in cerca di un lavoro per la mamma, biologa, e di un futuro sereno per i ragazzi. In famiglia c'è intelligenza, cultura, affetto. Nella pensione, gli Stipetic dividono l'unica stanza del grande appartamento messo a disposizione degli ospiti. Tutto sembra andare per il meglio, fino ad ora almeno. Frau Riet, la proprietaria della pensione, ha un debole per i giovani artisti. Lei stessa proviene da una famiglia di pittori. Forse si sente anche un'artista mancata e per questo le piace atteggiarsi da eccentrica. Si colora i sottili capelli di un improbabile arancione ed è sempre pronta ad accogliere giovani bohémiens senza arte né parte con i quali parlare di teatro e di musica. Così, quando le dicono che giusto una strada più in là vive quasi in miseria un giovane attore dai modi bizzarri, si incuriosisce e va a trovarlo. Ma neanche l'eccentrica Frau Riet è preparata a quello che trova in quella squallida mansarda. Una sola grande stanza senza mobili, un vuoto infinito riempito solo di centinaia e centinaia di foglie secche che crepitano sotto i piedi di un giovane uomo accorso alla porta. Il ragazzo è completamente nudo e accoglie la libita signora urlando e gesticolando. Frau Riet è sorpresa, ma non spaventata, e in un attimo prende la sua decisione. Questo giovane non può restare fra le foglie che ha raccolto, ma va aiutato, sostenuto e protetto. In breve si organizza per portarlo nella sua pensione, una scelta che sconvolgerà non solo la sua esistenza, ma anche quella degli altri suoi ospiti. Appena arriva nella pensione, il giovane si chiude in bagno per due giorni consecutivi. Accanto c'è la stanza occupata dagli Stipetic, che con timore e preoccupazione ascoltano urla e rumori. Il minore dei figli si chiama Werner e quell'episodio incide profondamente nella sua immaginazione, tanto che a distanza di diversi anni il suo ricordo è ancora vivido. Si chiuse lì dentro per 48 ore e nella sua furia maniacale ridusse tutto in pezzi infinitesimali. La vasca da bagno, il lavandino. Si sarebbe potuto passare tutto al setaccio attraverso i buchi di una racchetta da tennis. L'incontro con quell'attore irrequieto è un momento cruciale per Werner, perché improvvisamente quel bambino scopre che esiste la diversità, l'imprevedibilità, comportamenti che non si possono ricondurre alla logica, una scoperta che gli regala un nuovo modo di percepire la vita, una vita che fino ad allora sembrava ordinata e tranquilla, e che dopo aver assistito alle escandescenze dell'uomo che urla, che polverizza le cose, che vive nudo tra le foglie, a Werner sembra che si sbricioli, rivelandosi in tutta la sua stranezza. Werner è particolarmente sensibile alla realtà. È come una spugna asciutta appoggiata sull'acqua. Scopriamo perché. Werner Stipetich nasce a Monaco di Baviera nel 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Ha soltanto pochi giorni di vita quando la guerra costringe mamma Elizabeth a lasciare Monaco per andare lontano, a Sachang, un minuscolo villaggio in mezzo ai monti dell'Alta Baviera, vicino al confine austriaco. Qui per più di 10 anni vivono una vita quasi monastica. Poche semplici case di montanari, uno stile di vita che pare fermo al secolo scorso. Tutto intorno solo foreste e pascoli. Non doveva essere molto diverso dalla casetta di Heidi. Werner cresce in questo paradiso naturale, circondato dall'affetto della mamma che alleva i figli in un mondo semplice, fatto di pochissimi bisogni materiali e un'immensa natura intorno che supplisce a ogni mancanza. Fra le foreste delle montagne bavaresi, Werner cresce sviluppando un senso di natura bella, ma a volte ostile e popolata di figure magiche, che segnano il suo carattere e i suoi ricordi. Avrò avuto 3 anni quando ho visto Dio. Ne ero certo. Devo spiegarmi. Il giorno di San Nicola arriva Santa Claus che punisce i bambini cattivi. E visto che io ero molto cattivo, mi ero nascosto sotto il divano, ma i miei fratelli mi tiravano fuori, quando alla porta apparve un uomo in calzoni al ginocchio. E io mi convinsi che fosse Dio venuto a salvarmi. E mentre mi guardava gentilmente, capii che non avrei mai più avuto paura. Il Dio gentile di cui parla il piccolo Werner, altri non è che un operaio della vicina centrale elettrica accorso per un guasto. E l'episodio racconta bene come l'immaginazione dei 3 fratelli galoppi in quel contesto fatto di montagne e boschi. La fantasia alla lunga è molto più intrigante della realtà. This is fucked up, fucked up. Cause this is fucked up. Il villaggio di Sachrang, dove vive il primo dei protagonisti di Destini Incrociati, un ragazzino di nome Werner, non offre altro che la fantasia. Niente cinema, niente radio, niente che possa mantenere un contatto con il mondo esterno. I veri compagni del giovane Werner sono personaggi fantastici, mostri, orchi, folletti. Werner deve aspettare di avere 11 anni per vedere un film per la prima volta. Solo quando sua madre decide di ritornare a Monaco a 13 anni potrà vedere sfrecciare un'auto o fare la prima telefonata. Siamo tornati nella pensione dove abitano Elizabeth con i 3 figli. Tra i pensionanti c'è un giovane attore, sicuramente un po' strano, non solo per avere distrutto il bagno il primo giorno. I suoi comportamenti intrigano e incuriosiscono il piccolo Werner, che ne rimane incantato. La sua fantasia, caricata dall'infanzia magica, si nutre delle innumerevoli intemperanze del giovane, che sono quasi all'ordine del giorno. Una volta Werner lo vede correre per il corridoio urlando contro la padrona di casa. Qualcosa scendeva dolcemente danzando nell'aria. Erano le sue camicie. E lui che gridava con un tono di voce di 3 ottave troppo alto: «Clara, tu disgraziata!» Tutto questo perché lei non aveva stirato il collo delle sue camicie sufficientemente bene. La povera Clara, che lo ospitava gratis, lo nutriva e gli stirava la biancheria. Simili esperienze non possono non lasciare un segno. Il giovane attore trascorre nella pensione solo 3 mesi, ma a Werner bastano per scorgere nell'abisso della mente di quell'attore, dal carattere complesso, la promessa di un mondo nuovo e più interessante del suo. Non solo, il ragazzo scopre anche il fascino del teatro, della recitazione. Osservare l'uomo provare la sua parte per gli spettacoli fa comprendere a Werner lo sforzo titanico che c'è dietro la preparazione, senza altro scopo che quello della perfezione, della volontà di ottenere il massimo risultato. un insegnamento di cui Werner fa tesoro. Da quel momento impara che non esiste un sogno che non possa essere realizzato. Lo potevo sentire nel suo stanzino, perfezionare la sua voce e fare gli esercizi di dizione, per 10 ore non stop. Era incredibile. Faceva finta di essere un genio caduto dal cielo e che aveva ottenuto il suo dono direttamente da Dio. Ma era incredibile quanto si preparasse. L'inquilino più strambo del pensionato di Elisabeth Strasse, per quanto insopportabile caratterialmente, è sicuramente un bravo attore. Anni prima era stato persino notato dal grande regista italiano Roberto Rossellini a Berlino per i provini del suo film Germania anno zero. Durante le audizioni, mentre il regista si attarda al telefono con Anna Magnani, il giovane attore perde la pazienza e inizia, come al suo solito, a inveire contro Rossellini, il quale, per tutta risposta, esclama: «Chi è quello? Mi interessa, fategli un provino». Grazie a questo incontro, Werner capisce dove incanalare la sua smodata fantasia: il cinema. E quando a 14 anni si imbatte in un'enciclopedia dove apprende i rudimenti dell'arte della regia, è un'ulteriore illuminazione. A questo punto la teoria è fatta. Rimane da trovare una cinepresa da 35 mm. Il ragazzo non ha i soldi per comprarsi l'attrezzatura, ma la frequentazione con l'attore gli ha insegnato qualcosa: la trasgressione. Così Werner ruba la cinepresa alla scuola di cinema di Monaco. A questo punto sembra tutto pronto per spiccare il salto. C'è solo una nota stonata per Werner: il cognome, Stipetic. Forse perché slavo, gli sembra che poco si adatti a questa nuova strada. Molto meglio il cognome del nonno di Werner, un archeologo piuttosto noto negli anni passati. Oltre a un bel suono, ha anche un bel significato: duca. La scelta è fatta. Da oggi Werner Stipetic diventa Werner Herzog. Werner Herzog. L'infanzia solitaria e remota, l'adolescenza segnata dagli strani incontri nella pensione di Frau Reith, sono gli elementi che segnano il bagaglio culturale ed emotivo di Werner Herzog. Da una parte l'universo fantastico delle sue montagne, dall'altra l'irrefrenabile fantasia di quell'attore conosciuto per caso. Una miscela esplosiva nella Germania che sta con tanta fatica rialzandosi da un'altra follia che ha contagiato tutti questa volta: la guerra. È comunque difficile fare il regista quando non si hanno soldi. Il primo cortometraggio di Herzog risale al 1962, quando ha solo 20 anni e per pagarselo deve lavorare duramente come saldatore in fabbrica. Si intitola Ercole e in 6 episodi narra l'uomo della fatica, l'uomo che combatte contro le brutture della vita. Nel 1968 il regista gira il suo primo vero film, Segni di vita, ambientato nella Grecia occupata dai tedeschi. Il protagonista è un soldato che perde il senno dopo aver visto 10.000 mulini a vento. In una scena di Segni di vita c'è un uomo con i ricci biondi che suona il piano. Si chiama Florian Fricke. Herzog ne è come stregato. Fricke è il leader dei Popol Vuh, il gruppo musicale che firma quasi tutte le colonne sonore di Herzog, fatte di un misto di musica ambient alla Brian Eno, di rock cosmico alla Tangerine Dream e di una New Age ante litteram. La sua psichedelia ben si adatta al mondo visionario del regista, ma soprattutto è il segno di un decennio, quello a cavallo degli anni 70, in cui l'interesse per l'alterità, la diversità, si unisce alla sperimentazione raffinata. C'è spazio per idee diverse in quest'epoca. Si rifiuta l'omologazione. Del resto, la realtà offre molte ragioni per cercare qualcosa di più vero. I miei personaggi sembrano dei folli, ma è il resto del mondo a essere folle. Per Herzog, la follia è dunque strumento di ricerca, che egli con la sua arte trasforma in metodo, come direbbe Shakespeare. Egli ne è perfettamente conscio, sempre pronto a ironizzare con chi lo critica e con se stesso. Naturalmente non è vero che sono pazzo. Mi hanno visitato e sono risultato clinicamente sano. Herzog capisce che l'unico modo che ha per salvarsi è dare corpo e forma alle sue fantasie per non essere soggiogato da esse. Portare in pellicola i suoi personaggi è la sua ancora di salvezza. Penso che i personaggi dei miei film siano quasi degli eroi, delle figure eroiche. Eroi nella misura in cui superano le loro condizioni, escono dal proprio schema e vanno ben oltre le loro possibilità, prima di fallire di fronte a questa enorme sfida. È un comportamento che ci permette di salvaguardare la nostra dignità. Per molti aspetti, la creazione non è perfetta, ma non si è tenuti ad accettarla così com'è. La creazione non è perfetta. Questa sembra essere la lezione che Werner ha imparato in questi anni di formazione. Lo dimostrano i suoi due nuovi lavori. Anche i nani hanno cominciato da piccoli e Paese del silenzio e dell'oscurità, nei quali predominano la deformità fisica, l'handicap, metafora della piccolezza dell'uomo moderno, che lotta contro se stesso fino a distruggersi. Herzog ha accettato per sé il ruolo più importante, quello di ricercatore della natura umana, mettendo in gioco tutto se stesso. Vive l'esperienza della malattia, finisce in prigione durante le riprese di Fata Morgana, realizzato in Africa, un particolare che sembra solo una necessità di copione. Cammina per 800 chilometri in totale solitudine per andare a trovare una vecchia amica morente, da Monaco a Parigi, nella convinzione che finché è in cammino la sua amica può sopravvivere. Credo che girare sia un lavoro da atleti. Voglio lavorare con il mio corpo che mi dà istintivamente il senso dello spazio intorno. Non mi piace girare in uno spazio all'aperto che non abbia prima sperimentato col mio corpo. Herzog considera il proprio corpo come un filtro della realtà, uno strumento. Lo testimonia un episodio curioso che gli capita a Los Angeles. Durante un'intervista, Herzog viene colpito da un proiettile vagante. Normalità a Los Angeles significa anche dribblare pallottole. Nonostante la preoccupazione del cronista, a cui il regista mostra la ferita sanguinante, Herzog continua l'intervista, pronunciando una frase diventata un mito tra i suoi fan. Non è una pallottola significativa. Herzog, regista irrequieto, sta cercando una direttrice precisa nella quale incanalare la sua visione del mondo. Il 1972 è l'anno in cui avviene l'incontro decisivo con quel personaggio che abbiamo sfiorato all'inizio della nostra storia e che lo conduce per una strada senza ritorno, quella del successo. Il 1972 è un anno molto importante anche per la Germania, perché a Monaco di Baviera, la città di Herzog, si tiene la 20ª edizione delle Olimpiadi, soprannominate per l'occasione The Happy Games. È la prima Olimpiade per il paese dopo quelle del 1936. La 20ª edizione si apre sotto i migliori auspici, con la storica impresa dell'americano Mark Spitz, che riesce a conquistare 7 medaglie d'oro nel nuoto, un'impresa rimasta imbattuta per 36 anni. Spitz, inoltre, riesce persino a stabilire un nuovo record di tempo per ognuna delle specialità a cui partecipa. Ma le Olimpiadi di Monaco vengono ricordate per qualcosa di ben diverso dalla mitica impresa di Spitz. Vi parlo in diretta dal villaggio olimpico a Monaco, Germania federale. In questo momento 8 o 9 atleti della squadra israeliana sono tenuti prigionieri. Questo gruppo di guerriglieri si fa chiamare Settembre Nero. Il comando tiene sotto tiro gli ostaggi con armi automatiche. È stato raggiunto un accordo, ma gli israeliani sono spariti. Un massiccio spiegamento di forze. Qualcosa si propone tra gli armi. Sono i notiziari dell'epoca rimontati per il trailer del film Munich di Spielberg, che racconta quello che succede in quei giorni. A Monaco, un gruppo di terroristi palestinesi, chiamato Settembre Nero, prende in ostaggio 11 atleti della delegazione israeliana. Il tentativo di liberazione dei prigionieri finisce in un bagno di sangue, in cui tutti gli ostaggi restano uccisi. In un attimo, tutta la gioia e la festa per le vittorie dei giorni precedenti, soprattutto per i record polverizzati dal grande nuotatore, ma anche per il bronzo nei 200 metri del nostro Pietro Mennea, scompaiono nell'orrore di queste morti inutili. È la follia della realtà. Eppure il 1972 per Herzog è un anno eccezionale, iniziato con un libro di avventure storiche preso in prestito da un amico. Leggendo la storia dei conquistadores spagnoli nel 500 in Sud America e del comandante Gonzalo Pizarro, sente un'improvvisa ispirazione e nello spazio di 2 giorni butta giù la sceneggiatura di un nuovo film, Aguirre, furore di Dio. Herzog sente che il film può diventare il suo capolavoro, ma comprende anche che sarà la scelta del protagonista principale a fare la differenza. Nella storia, che racconta di un drappello di spagnoli alla ricerca dell'Eldorado, la figura principale è quella di Lope de Aguirre, un ambiguo personaggio che, quando la spedizione sembra precipitare verso il disastro, guida la rivolta contro i capi e in un crescendo di follia e alienazione porta alla dissoluzione tutti gli altri esploratori, in una giungla ostile e malevola, abitata da invisibili indio che silenziosamente uccidono tutti. Chi può interpretare Lope de Aguirre? Chi può riuscire a esplorare senza limitarsi i meandri della personalità di quel personaggio, il delirio, la furia distruttiva e al tempo stesso la drammatica passività dello spagnolo votato alla morte? Werner Herzog ha una risposta improvvisa ma sicura a questa domanda. Una risposta che lo riporta alla sua adolescenza e alla sorpresa provata nell'incontro con un attore nella pensione di Frau Riet. Gli ritorna in mente quell'uomo imprevedibile, sempre pronto a sovvertire le regole, a contravvenire alle aspettative. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1972, l'anno delle Olimpiadi di Monaco e di Settembre Nero, l'anno dello scandalo Watergate e dell'omicidio Calabresi. Insomma, non un anno fortunato. La fortuna, invece, arride al regista Werner Herzog e all'altro protagonista della nostra storia, che a partire da quest'anno daranno vita a uno dei sodalizi artistici più prolifici e controversi della storia del cinema. Herzog, il giovane regista che con le sue immagini visionarie partecipa al rinnovamento del nuovo cinema tedesco, nel 72 ha 30 anni e ha appena scritto la sceneggiatura del suo nuovo film, Aguirre, furore di Dio. Gli manca solo l'interprete adatto per il ruolo principale, quello del folle soldato spagnolo assetato di potere che si trascina in una zattera su un fiume della foresta amazzonica. Non è una scelta semplice. C'è bisogno di un attore particolare per un ruolo difficile. Ed è in questo momento che nella mente di Herzog si affaccia un volto. Grandi occhi azzurri quasi sempre spiritati, una bocca spesso atteggiata a un ghigno di commiserazione verso quasi tutti gli altri esseri umani. È il volto del giovane attore conosciuto un tempo nella pensione di Monaco di Baviera, dove tutti insieme vivevano nei primi anni 50. Sono passati 20 anni. Che fine avrà fatto? Guarda, guarda chi si vede. Il fumatore. Ti ricordi di me, amico? Ma sì, è il Paso. Il mondo è piccolo. Sì, è anche molto cattivo. La voce che avete appena sentito è quella del personaggio di Wilde il Gobbo, in Per qualche dollaro in più di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Jean-Marie Volonté. Nel ruolo di Wilde, appunto, recita l'attore tedesco a cui pensa Herzog. Il suo nome, che in quel periodo inizia a fare il giro dei registi e dei produttori italiani dell'epoca, piace perché è sinistro, secco, con tutte quelle cappa in mezzo. Lui è Klaus Kinski. Klaus Kinski. Il tedesco, grazie al suo ghigno, è molto ricercato per le parti di cattivo, soprattutto in filmetti di poco conto. Il carattere distruttivo e ingovernabile che gli rende difficili i rapporti con qualsiasi regista e il continuo bisogno di soldi gli fanno accettare film ben al di sotto delle sue qualità, ma a lui la cosa sembra non interessare. A lui piace sperimentare se stesso e in quel momento è l'Italia degli anni 70 che glielo permette. Qui viene accolto a braccia aperte. Per Kinski, quasi sempre, i ruoli più sgradevoli in ridicoli film horror e in un nuovo genere nostrano, gli spaghetti western. Gli spaghetti western sono un genere cinematografico che per oltre una quindicina d'anni, fra la metà degli anni 60 fino a verso la fine degli anni 70, rinnova la tradizione del western in Italia. Un genere che oggi ha molti estimatori, come il regista Quentin Tarantino. Spaghetti western one of the greatest genres. Spaghetti western è uno dei generi, per quel che mi riguarda uno dei generi più importanti nella storia del cinema e sicuramente nella storia del cinema italiano. Gli spaghetti western sono molto diversi dai fratelli maggiori americani. Più che l'eroe, il personaggio principale è un antieroe, mosso da interesse personale. La divisione fra buoni e cattivi non è così netta come negli epici scontri delle pellicole hollywoodiane. Le location sono in Italia o in Spagna e i budget produttivi molto minori, tanto che spesso non ci sono soldi per i costumi di scena, costringendo attori del calibro di Clint Eastwood, il protagonista dei mitici film di Sergio Leone, a portarsi i propri vestiti sul set. We had nothing. I had one hat. Non avevamo niente. Avevo solo un cappello. Se lo avessi smarrito saremmo stati perduti. Non c'era modo di trovarne un altro. Quindi tutte le sere mi portavo il cappello e il poncho in albergo, perché non potevamo permetterci di perderlo. Quello che mi ero portato dall'America dovevamo farcelo bastare. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Klaus Kinski recita negli spaghetti western non tanto per amore del genere, piuttosto per soldi. Un motivo più che sufficiente. Quando ero piccolo eravamo molto molto poveri, per davvero. A volte non avevamo niente da mangiare per giorni. E così, quando ho iniziato a guadagnare, è stata come una festa. Eh già, l'infanzia di Nikolaus Karl Günther Nazinski, in arte Klaus Kinski, è la stessa di tanti giovani dei distretti poveri del Nord Europa. Nasce nel 1926 a Sopot, in quello che allora era la città-stato di Danzica. Creato nel 1920, Danzica era un territorio di più di 200 fra città e paesi, con una prevalenza di popolazione tedesca, che secondo il Trattato di Versailles, dopo la Prima Guerra Mondiale, doveva venire considerato separato dalla Repubblica Tedesca di Weimar, il motivo che portò la Germania nazista alla guerra. Kinski non ha il tempo di crescere. Viene subito arruolato nell'esercito tedesco e quasi subito fatto prigioniero dagli inglesi. A 26 anni dopo la guerra, Kinski è a Berlino, vittima consapevole del suo carattere irrequieto. Pericolo pubblico, così viene definito Kinski dalle strutture sanitarie. L'attore è considerato anche un genio, ma soprattutto un pericolo per sé e per gli altri a causa delle sue terribili sfuriate. Una sorta di psicopatico che durante un ricovero arriva a ingerire 3 fiale di morfina per amore di una dottoressa molto più anziana di lui. E così solo, senza prospettive, in precario equilibrio mentale, Kinski viene raccolto dalla generosa Frau Ritt. Ed è per il ricordo di quest'uomo nudo, in tutti i sensi, che Herzog, 15 anni dopo, decide di reclutare l'attore nel film Aguirre, furore di Dio, convinto di conoscere e di poter gestire le intemperanze dell'attore. D'altra parte, il regista crede che siano proprio queste intemperanze la chiave di volta che gli serve per aggiungere spessore al personaggio di Aguirre. Se io, Aguirre, voglio che gli uccelli cadano fulminati, gli uccelli devono cadere stecchiti dagli alberi. Sono il furore di Dio. La terra che io calpesto mi vede e trema. Sono il furore di Dio, recita Kinski, e non solo. Appena parte la lavorazione del film, nell'inospitale giungla peruviana, si scatena il carattere megalomane dell'attore. Quando scopre che nella scena iniziale lui sarebbe stato solo un puntolino tra una lunga fila di uomini in mezzo alla giungla, Kinski vuole abbandonare la produzione, arrivando a minacciare un altro attore con una spada, fino a spaccargli di netto in due l'elmo. A sua volta Herzog minaccia Kinski con una pistola e gli giura che se pianta il set, lui gli pianta una pallottola in corpo. Questa schiavitù verso il proprio carattere è quello che Herzog cerca per il suo interprete. Nel suo progetto, Aguirre è un soldato accecato dal delirio di onnipotenza, che vuole per sé e per i suoi compagni onori e gloria e oro, fino a trovare la morte su una zattera. Le urla e le intemperanze di Kinski superano le stesse aspettative del regista, il suo stesso desiderio di portare a termine un film, che si rivela produttivamente durissimo, difficile, funestato da 1000 inconvenienti, e per il quale Herzog arriva a rubare persino 400 scimmiette dall'aeroporto dove stavano partendo per Miami. Con l'uscita di Aguirre nei cinema di tutto il mondo, Herzog diventa di colpo non più un fenomeno tedesco della cinematografia, ma un nome conosciuto ovunque. Grazie all'enormità del progetto e all'interpretazione vibrante di Kinski, Aguirre diventa un film culto, inserito nella lista dei 100 film più importanti del mondo e fonte di ispirazione per Francis Ford Coppola e il suo Apocalypse Now. Non esistono parole per descrivere lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore. L'orrore ha un volto. E bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici. In caso contrario, allora diventano nemici da temere. Anche Kinski improvvisamente si trova a essere al centro dell'attenzione della critica. Una sensazione inebriante. Quando gira con Herzog ha già 46 anni, non esattamente un ragazzo. Anni di film di serie B per un uomo così ossessionato dall'arte della recitazione e dall'ego strabordante sono un fardello pesante. Per Kinski, Herzog è la grande occasione, colui che finalmente ha saputo riconoscere in lui quella genialità interpretativa che l'attore ha sempre saputo di possedere. E a differenza di tutti gli altri registi che non tolleravano le intemperanze dell'attore, rinunciando a utilizzarne le grandi capacità, Herzog cavalca questa follia, la provoca, sembra comprenderla davvero. Negli anni successivi i due girano insieme Wojciech e Nosferatu, Principe della Notte, considerati ormai due classici. Il sodalizio Herzog-Kinski si costruisce litigio dopo litigio, in un continuo rincorrersi, provocarsi, sfidarsi per ottenere sempre più l'uno dall'altro. Kinski, con il suo comportamento senza freni e senza riguardi per se stesso e gli altri, è come se agisse da cassa di risonanza delle follie solo immaginate da Herzog, mentre il regista, non meno originale nelle sue manie, riesce con la sua lucida ricerca a incanalare in modo produttivo le smanie di Kinski. Devo confessare che tutta quell'isteria che Kinski introduceva alla fine risultava produttiva. Forse è questo il punto principale. Ovviamente era imbarazzante per me e per lui, ma tutte le volte che Kinski usciva davvero fuori di senno, isterico come il diavolo, funzionava. E quindi cercavamo di girare in fretta. La differenza fra le loro percezioni si rivela in molte cose, a partire dalla visione che hanno della natura che li circonda, nella foresta peruviana, che per Herzog è addirittura nemica. Dobbiamo accettare che è molto più forte di quello che siamo noi. Kinski dice sempre che la natura è piena di elementi erotici, ma io non ci vedo molto di erotico. La vedo solo piena di oscenità. È violenta, è cattiva. Io non ci vedo niente di erotico. Solo fornicazione, asfissia, soffocamento, lotta per la sopravvivenza e crescita e marcescenza. Una natura così dura andrebbe fuggita, ma Herzog pare inseguirla sempre. Tanto che nel 1982 vi ritorna per girare il film più importante dei cinque realizzati insieme a Klaus Kinski, Fitzcarraldo. Here, back, down, all long and strange. Track. I chose the long road that leads me out to God knows, so I can't stop right now. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati, Werner Herzog e Klaus Kinski stanno per scrivere il capitolo più importante della loro storia di amore e odio. Si intitola Fitzcarraldo ed è ambientato nella foresta amazzonica. La trama è semplice, una nave che scala una montagna. Herzog sta attendendo la risposta di Kinski, che ha appena letto il copione di Fitzcarraldo, il suo ultimo film, su un eccentrico irlandese che vuole costruire un teatro dell'opera nel bel mezzo della foresta amazzonica. Quando l'attore lo raggiunge, aggredisce Herzog urlando, sbraitando. Le parole sono sconnesse, vaneggianti. Il regista teme il peggio, ma quando riesce a fare ordine fra i pensieri sconnessi dell'attore, comprende che Kinski vuole la parte. Fitzcarraldo è lui. Solo lui può interpretare quel ruolo. Nessuno conosce Fitzcarraldo come lui. In realtà, inizialmente la parte era stata affidata all'attore americano Jason Roberts, che però si ammala piuttosto gravemente durante le riprese e deve abbandonare il progetto. Accanto a lui recita anche il cantante Mick Jagger, che decide di non proseguire l'avventura. La malattia di Roberts è solo una delle mille disgrazie che accadono su uno dei set più disastrosi mai portati avanti nella storia del cinema. Fra innumerevoli incidenti e problemi, la lavorazione del film richiede quasi 4 anni. Della storia, la cosa che più sta a cuore a Herzog non è tanto che Fitzcarraldo riesca a costruire il suo teatro, quanto che per realizzare i suoi sogni faccia salire una nave sulla montagna. E per rendere la potenza di questa volontà, sceglie di utilizzare non un modellino, ma una vera nave da 300 tonnellate, trainata da una moltitudine di indio, con un sistema di corde e carrucole ideato addirittura da un ingegnere. E Kinski non si ritrae di fronte al folle progetto. Tutt'altro. Fitzcarraldo è l'ennesimo chiaro esempio di come la follia sia bagaglio di entrambi gli uomini. La sofferenza che Herzog infligge a se stesso e ai suoi attori durante la lavorazione del film è totale. Mesi sotto piogge torrenziali, circondati da animali pericolosi, indio ostili, infiniti incidenti sul set, cinghie che sorreggono la nave di 300 tonnellate che si spezzano facendola cadere giù dalla collina, e poi le rapide che trascinano via la nave fino a farla incagliare. La regia è qualcosa che ha a che fare non solo con la recitazione, ma anche con l'esistenza. Quindi non deve essere molto facile. Deve causare sofferenza. Tutti i miei film arrivano dalla sofferenza. Questa è la fonte. Ecco da dove arrivano, non dal piacere. E tanta sofferenza può essere accettata solo come un atto di fede. Ed è quello che fa Kinski, l'uomo che si crede Dio, l'uomo che pretende amore assoluto verso il suo io megalomane. Kinski conosce perfettamente l'anima del suo amico Herzog e la natura del loro rapporto. Ormai l'uno è parte stessa dell'identità artistica dell'altro. È pazzo, è pazzo, ecco perché lavoriamo insieme. Kinski ride di quest'unione folle e non risparmia niente al suo regista, in un abbraccio di amore ma soprattutto di tensione emotiva che sfocia quasi sempre in epiche sfuriate. Non mi dire come devo recitare, non lo sopporto, posso farlo da me. Se pensi di essere migliore, perché non reciti tu? Tu sei sempre per le mezze misure, sei fottutamente spaventato dalle conseguenze. Se vuoi che qualcuno sia eccitato, allora lascialo eccitare, allora fai girare quella maledetta cinepresa. No, quella cinepresa resta spenta. Io recito come mi pare. Ok, ma dobbiamo... Tieniti il tuo consiglio di merda per te. Tu non sei un regista, è da me che devi imparare. Tu sei un principiante, un regista nano, non sei un regista per me. Adesso non insultarmi. Insultarti? Sei tu che mi insulti cercando di dirigermi. Herzog e a Kinski e alla loro rappresentazione esplosiva della lotta fra la vita e la morte, la troupe e le comparse non potevano che assistere impotenti. Quando succedevano queste cose, cioè ogni giorno, si vedeva che gli indios erano morti di paura. Ce n'erano 370 che venivano dalle montagne e non avevano idea di cosa stesse succedendo, ma ovviamente sentivano che qualcosa non funzionava. Forse tutto questo non è altro che l'estremizzazione dello spirito romantico dei due tedeschi. Una spinta verso l'assoluto, caratteristica della cultura mitteleuropea, che anche se in modo così diverso nella loro manifestazione, i due uomini hanno dentro di sé. Ma è comprensibile che non tutti la capiscano. Alla fine delle riprese, uno dei capi venne da me e mi disse che non avevano avuto paura dell'uomo pazzo che aveva urlato tutto il tempo. Avevano avuto paura perché io ero rimasto così tranquillo. Fitzcarraldo vince il premio per la regia al Festival di Cannes del 1982. 5 anni dopo, nell'87, Herzog e Kinski girano l'ultimo film insieme, Cobra Verde, tratto da un romanzo di Bruce Chatwin sulle avventure di un venditore di schiavi. Nella scena finale, Kinski è su una spiaggia al tramonto, solo, che cerca disperatamente di mettere in acqua una piccola scialuppa. Finisce così, con questa immagine di infinita impotenza, anche il sodalizio fra il regista e l'attore. Kinski muore nel 1991. Al suo funerale è presente solo l'ultimo dei figli, Nikolai, avuto dalla terza moglie, la franco-vietnamita Minoy. Le altre due figlie, Paula e la famosa Anastasia, preferiscono non partecipare dopo anni di conflitti con un padre così difficile e controverso. Per Herzog è una perdita dolorosissima. Lui è l'unico che mi ha insegnato qualcosa. Io sono completamente autodidatta. Non ho mai fatto l'assistente, non ho mai frequentato una scuola. Ho imparato tutto da me. Ho sviluppato tutte le mie capacità in solitudine. Ma ho imparato soltanto da lui. 8 anni dopo la morte dell'amico, Herzog decide di rendergli onore realizzando un docufilm intitolato Kinski, il mio nemico più caro, con spezzoni di film, interviste, riflessioni sul suo rapporto con l'incredibile attore tedesco. Le immagini finali ci mostrano Kinski in un momento di pausa durante la lavorazione di Fitzcarraldo. Su di lui si è posata una grande farfalla tropicale, con cui l'attore gioca e alla quale dispensa uno dei suoi rari sorrisi, incredibilmente dolce e come pacificato. Le parole di Herzog su queste immagini sono il suo epitaffio per l'amico. Lo vidi con una farfalla, gentile, delicato. La piccola creatura non voleva lasciarlo, non sembrava averne paura. Qualche volta mi sembra come se Klaus stesso si sia trasformato in una farfalla. Tutto quello che gravava su di noi è sparito. E anche se la mia mente si ribella al pensiero, qualcosa dentro la profondità di me stesso mi dice che è così che voglio ricordarlo. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.